Con te mercoledì scorso a parlare e a raccontare insomma il movimento e il suo modo di agire a Barcellona. Tu ci dicevi che era il caso, era l'ora insomma di passare dall'indignazione all'azione. Raccontaci quindi quanto è successo a Barcellona, anche perché dobbiamo dire insomma che un po' le manifestazioni della Catalogna sono state oscurate, no? È Madrid che un po' ha preso così il sopravvento su tutto. Volevamo capire anche se credi che ci sia una motivazione specifica su questo, ma insomma intanto raccontaci com'è andata. Va bene, iniziamo la partecipazione del corteo. Il corteo è stata una partecipazione massiva, enorme, 100.000 secondo le forze dell'ordine, 350.000 secondo gli organi, secondo il movimento. Dicevamo l'altro giorno che lo striscione da parte d'apertura e quindi la campagna portata avanti per questo 15 ottobre era, come tu giustamente ricordavi, il concetto dell'indignazione all'azione, perché oltre a essere indignati, scusate la parola, siamo anche un po' incazzati. Quindi spiegavamo l'altro giorno che di cercare di riuscire a fare questo salto qualitativo attuando con delle pratiche di riappropriazione di azione diretta. Questo è quello che è successo durante il corteo, perché il corteo alla fine, quando siamo arrivati in una piazza che si chiama Arc de Triomphe, non è finito, è stato, diciamo, si è diviso in tre parti che sono andate a effettuare proprio questa pratica di azione diretta, una parte con negli ospedali, sono stati occupati due ospedali che attualmente sono ancora occupati, è ovvio che quando parliamo di occupazione degli ospedali non è che si tratta dell'occupazione dell'ospedale intero, ma piuttosto delle, diciamo, dei piani che sono stati chiusi proprio per i tagli alla sanità portati avanti dal governo catalano a partire dal giugno scorso. Un'altra parte del corteo è andata a occupare due facoltà della Università di Barcellona, che sono la facoltà di filosofia e la facoltà di storia e geografia, e un'altra terza parte è andata a occupare un edificio con le famiglie che sono state recentemente sgomberate per morosità. Quindi questo problema che si sta riversando in tutta la Spagna dovuto alla crisi del sistema immobiliare, per il fatto che milioni di famiglie non riescono più a pagare l'affitto, non riescono più a pagare i mutui, quindi vengono sgomberati per la loro casa. Questo quindi, diciamo, è quello che si sta vivendo qua in Catalogna. Nel caso degli ospedali, i due ospedali occupati rimarranno occupati, questo è quello occupati da lavoratori, rimarranno occupati fino al giorno 17 novembre, in cui è stato indetto il primo grande sciopero degli ospedali. Nelle facoltà la situazione è ritornata un po' nella normalità, però questa lettura politica, diciamo che l'occupazione temporanea, sono stato occupato solamente nel fine settimana, è in virtù del fatto che il 6 novembre viene lanciato lo sciopero dell'università, sciopero al quale parteciperanno sia ricercatori che studenti. Perfetto. Parlerei un attimo dell'occupazione delle famiglie, che secondo me è anche la situazione che mi sto vivendo più da vicino, perché penso che, insomma, già tutti sanno che il movimento catalano delle occupazioni negli anni 90 è stato un movimento molto forte, quello che si chiama movimento dell'occupa, che però non è mai riuscito a sedimentarlo come processo costituente, nel senso che le famiglie adesso che stanno perdendo la loro casa stanno attuando con un processo reale e concreto per riprendersi quello che è loro. Nel caso di questa occupazione è stato occupato un edificio emblematico della crisi, perché è un edificio che era di un'impresa immobiliare che ha fallito e che è stato espropriato da istituti di credito, che altro non sono che strozzini istituzionalizzati. Quindi in questo momento l'occupazione va avanti e c'è anche, diciamo, una risposta istituzionale un po' che dicotomica, nel senso che non sanno bene quello che fare, perché se da una parte sgomberano questo edificio, il movimento acquisterebbe una forza immensa, con l'altro lato, se non viene sgomberato, si creerebbe un precedente politico. Quindi secondo me questo è un concetto, non so, che penso che sia un processo interessante rispetto a quello che sta succedendo qua in Catalogna. Beh, assolutamente sì, insomma, è molto interessante il fatto che comunque nel complesso la giornata è stata caratterizzata da una serie di iniziative che hanno teso a, diciamo, aggredire le questioni relative al welfare, no? Quindi università, istruzione, ospedale, salute e casa, caro affitti. Chiaramente è un ventaglio di questioni tutte assolutamente essenziali per i movimenti sociali. C'è un coinvolgimento da parte della gente, Flavia, che trascina anche la stessa giornata di sabato? Il clima qual è, insomma? Lo senti, si sente questo coinvolgimento? Il clima è un appoggio sociale completo, nel caso, ritorno nel caso specifico dell'occupazione delle famiglie, che sicuramente l'occupazione si trova in un quartiere molto popolare, però anche a livello mediatico ci sono persone che vengono a portare roba da mangiare, che vengono a portare letti, quindi un appoggio sociale totale. È proprio questo il fatto, che è per questo che la risposta istituzionale ancora non è ben chiara, perché se attuassero con uno sgombero, la paura è che l'attivazione sociale diventerebbe ancora maggiore, no? Quindi si aumenterebbe la temperatura della rabbia sociale, semplicemente. Nel caso in cui non attuassero con uno sgombero, è come se questa forma di riappropriazione venisse legittimata a livello istituzionale. Siccome stiamo parlando di circa 11.500 famiglie solo che hanno perso casa solo nel primo trimestre del 2011, capite bene che potrebbe essere una esponenzialmente, un'azione che potrebbe riprodursi esponenzialmente nella città di Barcellona. Assolutamente, una miscela che davvero possiamo definire esplosiva, sia in un caso a questo punto che nell'altro. Evidentemente le autorità governative e istituzionali stanno cercando di dosare, insomma, al meglio il loro comportamento. Senti, Flavia, ecco, l'eco dei fatti di Roma immaginiamo, insomma, si sia fatto sentire anche lì da voi. Qui i media hanno dipinto, come dire, una Spagna scandalizzata dalla battaglia in Piazza San Giovanni, no? Non sappiamo, le cose stanno proprio così? Tu hai avuto modo di parlare anche di quanto è successo a Roma con i compagni, le compagne che ti stanno più vicino? Cosa ne pensano? Allora, la situazione, io penso che questa diciamo dicotomia, questo attacco dei mainstream su violenti non violenti, buoni o cattivi, è una cosa che abbiamo vissuto anche con Catalunya il 27 maggio, quando hanno provato a sgomberare Plaza Catalunya stessa, quindi la campana di Plaza Catalunya. In quel caso, come in questo caso, la lettura politica che noi facciamo è che è un metodo repressivo per rompere un movimento che è appena iniziato. Il movimento del 15 ottobre sta cercando di impulsare, di determinare un movimento generale in tutta Europa contro le piene austerità e dei paesi europei, e che quindi diciamo che la lettura politica che si fa qua, che anche noi come movimento abbiamo vissuto questa situazione. Massimo appoggio ai compagni di Tappusa, la partecipazione a Roma è stata massiva, è evidente la elevata temperatura della rabbia sociale che si vive a Roma. Però da dire qua che assolutamente non si ha la percezione di una dinamica di presenza di violenti. Va bene, va bene. Pronto? Pronto, io ti sento, continuo a sentirti. Sì. Volevi concludere? Avevi concluso? No, perfetto. No, sei stata molto molto chiara, insomma, era proprio quello che volevamo capire, no? Nel senso che di fronte poi agli attacchi repressivi anche da voi hanno provato, insomma, a scompaginare il movimento attraverso manovre di divisione, e il tentativo che chiaramente anche qui stanno provando a fare, che va respinto al mittente con la massima forza. Senti, Flavia, noi ti ringraziamo ancora, e dunque, ecco, magari ci risentiamo in un'altra occasione. In bocca al lupo anche e soprattutto per questa iniziativa delle case occupate con le famiglie. Speriamo, insomma, che vada bene e che il movimento da questo punto di vista possa ampliarsi ancora di più. Va bene? Ok. Ciao. Okay, un saluto a tutte. Ciao.